e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buon inizio settimana a tutti. Nei giorni in cui si fa un gran parlare dei furbetti della pubblica amministrazione che timbrano il cartellino e poi vanno a fare dell'altro, un noi girettino. Oggi, esatto, facciamo la rima. Partiamo dal caso invece del cittadino rumeno licenziato per via di un utilizzo della posta elettronica giudicato per fini personali dal suo datore di lavoro. Un caso che ha fatto molto discutere la scorsa settimana. Noi ripartiamo da questa notizia aprendo il lunedì di Cuore Denari. Vi chiediamo di riflettere sull'uso che fate dei vostri strumenti aziendali. Vi è mai capitato di compiere qualche leggerezza, di essere richiamati per un motivo del genere, per un utilizzo non coerente con la professione o della mail o del telefono aziendale, del PC aziendale, dell'auto aziendale? Che idee vi siete fatti di questa vicenda? Controllare l'uso della posta aziendale è un'ingerenza nella vita privata? Raccontatecelo se volete all'800 24 0024 oppure scriveteci al 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Ne parleremo nella prima parte della puntata di oggi con il nostro esperto, allargando però la nostra prospettiva a tutte le novità contenute nel Jobs Act in materia di controlli a distanza del posto di lavoro. Deborah, ma diciamo la verità, se chi lavora con computer e software dell'azienda mette probabilmente in conto di poter essere controllato, fa un certo effetto pensare che ci siano dispositivi che permettono, attraverso particolari sensori, di monitorare movimenti, temperatura corporea, voce, quindi l'eventuale tempo sprecato in chiacchiere. Non so se avete letto l'avventura dei giornalisti del Daily Telegraph, spiati da una scatola nera appositamente collocata sotto la sedia della scrivania, munita di sensori di movimenti e di temperatura, in grado quindi di rilevare se la scrivania è occupata o se il suo titolare è fuori magari a bersi un caffè. Quindi in sostanza chi va all'osto rischia il posto. Non sappiamo se anche in questo caso sono state ventilate le 48 ore di cui si sta molto parlando da noi, anche perché al momento a essere rimosse sono solo le scatolette spia. Intanto voi non muovetevi di lì. Se ci state ascoltando con il fondo schiena incollata alla sedia, restate dove siete, localizzatevi. Oggi ci trasferiamo in ufficio da voi, parleremo di postura alla scrivania, raccontateci qual è la vostra posizione preferita, come state seduti, in punta, ben appoggiati allo schienale, leggermente sdraiati, con le gambe allungate, accavallate, attorcigliate, ma soprattutto raccontateci che cosa succede quando vi alzate. Vi sentite un po' arrugginiti? Ma non ci fermeremo in ufficio, ci metteremo anche al volante, torneremo a casa per fare un controllo qualità di divani, materassi e cuscini. Restate e chiamate. Il controllo della posta elettronica aziendale da parte del datore di lavoro è un'ingerenza nel diritto alla vita privata, ma è un'ingerenza compatibile con la Convenzione dei diritti dell'uomo, a patto che sia di portata limitata. Chi lo esprime questo concetto, che è anche un pochino complicato? La Corte europea, che nei giorni scorsi si è pronunciata su un tema delicatissimo, partendo dal caso di un cittadino rumeno, dipendente di una società privata, che su richiesta del datore di lavoro aveva creato un account di posta per rispondere ai quesiti dei clienti. Era sorta però una controversia perché il datore di lavoro sosteneva che questo indirizzo di posta, questo indirizzo mail, era stato usato anche per fini personali. Da qui il licenziamento, poi dopo i procedimenti davanti ai giudici nazionali, l'approdo a Strasburgo sul ricorso del lavoratore. E allora, che portata ha questa sentenza? Voi come vi comportate in azienda? Distinguete rigidamente la mail personale da quella professionale? Peraltro dobbiamo ricordare che questa pronuncia si intreccia in Italia con tutte le novità contenute nel Jobs Act in materia di controlli a distanza sul posto di lavoro. Buongiorno e benvenuto per parlare di un argomento così frizzante in questo lunedì di gennaio, l'avvocato Gabriele Fava dello studio Fava Lex. Buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. E buon anno. Altrettanto. Che tra l'altro è l'autore di un instant book che ha realizzato per conto della Confcommercio, intitolato proprio Jobs Act, la nuova disciplina sui controlli a distanza e le regole della privacy. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande su questo tema, che è anche piuttosto spinoso, perché immaginiamo che anche per un'azienda sia difficile capire cosa fare quando, per esempio, necessariamente deve installare dispositivi di controllo negli edifici aziendali, che mediamente noi immaginiamo vengano installati per ragioni di sicurezza, non certo per controllare quante volte va in bagno un dipendente. E quindi un'azienda deve essere anche molto prudente nella gestione della privacy dei propri dipendenti. Che novità ha introdotto su questo il Jobs Act? Ne parleremo tra poco, ma avvocato Fava, partirei subito con la nostra questione di partenza, quella della mail aziendale e di questa sentenza della Corte di Giustizia europea del 12 gennaio di quest'anno, sul licenziamento di un ingegnere rumeno che ha utilizzato il sistema di messaggistica dell'ufficio per comunicare con fidanzata e fratello. Ho letto alcuni commenti di alcuni suoi colleghi avvocati che hanno parlato di una sentenza bufala, di una sentenza che non avrà grandi conseguenze. Lei che cosa dice? Che portata avrà questa pronuncia? Ma sì, in linea di massima sono assolutamente d'accordo con i miei colleghi. Non è una sentenza che crea un precedente. Perché se ne parla tanto? Perché l'argomento è di moda. Tutto sommato, se andiamo indietro, era partito ed era di moda fin dalla nascita della privacy. Quindi la privacy in Italia, perché? Perché avevamo cercato di scoppiazzare da modelli americani plasmandoli sul tessuto italiano. Se andiamo indietro, rubo un secondo, ricordiamo casi emblematici dove magari il dipendente era in malattia, ma in realtà era a giocare a tennis o era addirittura con la fidanzata, e per questo motivo non era possibile intervenire disciplinarmente, perché la prima eccezione che accampava il dipendente era il rispetto della privacy. La privacy non si tocca e quindi non puoi andare oltre, ed era sono stati casi, anche se vogliamo tra virgolette imbarazzanti, perché nonostante il dipendente stesse violando il contratto di lavoro e quindi un rapporto contrattuale col datore di lavoro per il quale era pagato, ciò nonostante il datore non poteva fare niente perché c'era la privacy. Ecco che ad oggi questa privacy è stata modificata, si è arricchita, è cambiata. E arriviamo ai casi di cui stiamo parlando, che non è una novità, se vogliamo è una novità la materia, perché è stata rivista, come dicevo un attimo fa, dal Job Act. La sentenza in questione non porta novità, non fa altro, se vogliamo, addirittura che richiamare espressamente, riconfermare le linee guida del garante. Il garante della privacy, il nostro garante della privacy, già nel 2007 aveva dato delle linee guida, e sinteticamente la sentenza le richiama espressamente, quindi riconferma la bontà dell'impianto normativo nostro italiano per quanto riguarda limitatamente il garante della privacy. Lascio concludere. Sì, e quindi cosa dice? Dice che la mail, il PC, il telefonino, questi beni di proprietà aziendale che sono concessi in uso al dipendente possono essere controllati, ma a determinate condizioni. Quindi il controllo su questi strumenti di proprietà del datore, ma usati dal lavoratore, può essere fatto seguendo certe regole. A patto che però il lavoratore lo sappia. Il datore di lavoro consegna un telefono aziendale oppure assegna l'utilizzo di una mail aziendale e dice: guarda che però io mi riservo la facoltà di effettuare dei controlli. È così oppure non lo si sa all'inizio del rapporto di lavoro? Perché naturalmente io penso a me stessa, Nicoletta, ne parlavamo proprio nei giorni scorsi, a quante leggerezze effettivamente, come dire, utilizziamo quante leggerezze abbiamo appunto nell'utilizzo della mail aziendale, perché io per prima naturalmente molto spesso poi non è che faccia chissà che cosa, però molte mail private vengono mandate come... Certamente, dice benissimo. E non ricordo di un colloquio con il direttore del personale in cui mi abbia detto: guarda, la mail però non usarla a fini specifici personali tuoi. E infatti dice benissimo. Da quando è nata la privacy in Italia fino ad oggi, naturalmente le situazioni si sono modificate e si è perfezionato, arricchito proprio la prassi, la practice aziendale di approccio a queste nuove strumentazioni, nuovi strumenti. Ecco perché siamo arrivati ad oggi, che c'era bisogno di un intervento legislativo. Il Job Act l'ha fatto e ha ammodernato, se vogliamo, un sistema ormai un po' superato, un po' obsoleto. Ma? Diceva benissimo, i controlli possono essere effettuati a determinate condizioni. Una fra tutte, ed è la prima, è che ci sia una policy adeguata, precisa, puntuale, che disciplini l'utilizzo di questi strumenti da parte dei lavoratori e che soprattutto venga anche comunicata ai dipendenti. Quindi deve essere chiarito ai dipendenti quali sono i beni che gli vengono dati in dotazione, in uso. come devono essere usati e quali possono anche essere le conseguenze. Il tutto naturalmente condito da un po' di buonsenso generale, che naturalmente non deve mai mancare anche in comportamenti di questo tipo. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Parlavamo appunto del garante della privacy, lo ricordava l'avvocato Fava, che ha emanato delle linee guida per l'utilizzo della posta elettronica ed internet già dal 2007, ha disciplinato la materia prevedendo per il datore di lavoro l'onere di regolamentare l'utilizzo degli strumenti informatici in azienda attraverso una policy aziendale, fissando modalità e condizioni per il legittimo controllo della posta elettronica da parte del datore di lavoro. Quindi nel concreto le aziende fino a che punto si spingono, avvocato Fava? Fino a che punto possono esercitare il loro controllo, ricordando che però la privacy appunto disciplina la questione in una determinata maniera? Ma certamente, oggi le aziende sono molto sensibili a questo aspetto. Ricordiamolo, e l'ha anticipato giustamente un attimo fa lei, oggi se c'è questo regolamento aziendale, perché poi la policy aziendale non è altro che un regolamento aziendale di utilizzo dei beni aziendali in uso ai dipendenti, che deve essere portato a conoscenza dei dipendenti. Quindi se io sono un dipendente di una società, devo sapere che il mio PC, il mio telefonino, la mail aziendale, posso utilizzarla e devo utilizzarla seguendo determinate indicazioni. Quindi se io so che ad esempio la mia mail aziendale non posso utilizzarla per fini personali, e quindi questo mi è chiaro ed è provato, se io la utilizzo per fini personali, a quel punto il datore di lavoro può controllarla e può oggi, a differenza del passato, può addirittura intervenire disciplinarmente. Cosa che è sicuramente molto importante. Quindi, per tornare alla sua domanda, oggi il datore di lavoro, nel rispetto di determinate condizioni e requisiti che sono indicate sia da Strasburgo che ha richiamato, quindi che ha confermato le linee guida del garante della privacy, che è il Deus ex machina, il dominus della situazione, oggi il datore di lavoro può fare veramente tanto. Oggi col Job Act può andare anche oltre il mero controllo, la mera verifica, può andare anche verso dei provvedimenti disciplinari. Questo non deve naturalmente suscitare preoccupazione adesso fra gli ascoltatori, perché non è che si scateneranno una serie di grandi fratelli in tutte le aziende. Può farlo, il lavoratore ha il diritto di farlo, la norma glielo consente, naturalmente tutto questo però a patto che sia in certi casi contrattualizzato, come dire, con le organizzazioni sindacali, stabilito molto rigidamente con le organizzazioni sindacali, che venga comunicato con grande trasparenza al lavoratore. Allora, con grande trasparenza ti dico che sono le 10.46 ed è l'ora di andare a sentire che cosa succede. Che non ti venga in mente di scrivermi più tardi se andiamo a fare l'aperitivo dopo, perché no, ecco, adesso devi venire direttamente a dirmelo a voce. Allora, andiamo. Cuore e denari. Italia sì, Italia no, Italia pum. La strage è impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Ed effettivamente c'è un gran bel dibattito, bello per modo di dire, in questi giorni in Italia sul tema di chi approfitta anche del proprio posto di lavoro, quello fisso, per fare un po' gli affari suoi, insomma. Ma noi non entriamo nel merito di questa vicenda che già fa discutere fin troppo. Quello che noi affrontiamo oggi è un altro argomento, che è scaturito da una sentenza della Corte Europea di Strasburgo nei giorni scorsi, che ha stabilito che un datore di lavoro, avvocato Fava, lo ribadiamo, sulla base di questo cittadino rumeno che utilizzava la mail personale, la mail aziendale a fini personali, appunto, ha stabilito la Corte di Strasburgo che il datore di lavoro può fare i suoi controlli rispettando naturalmente le norme della privacy. Ingerenza sì, ma fino a un certo punto. Certo, correttissimo. Questo cittadino rumeno, tanto per come dire, spiegare anche la portata del suo caso, quante mail mandava in Romania, fidanzata e fratello? L'abuso, ecco, tra virgolette, del dipendente, il dipendente romeno in questione, è stato veramente importante. Quindi, ancora una volta, lei ad esempio prima ha richiamato un concetto fondamentale in tutto il diritto in generale, il buon senso. Il buon senso deve prevalere. Facendo un esempio, se io mando una mail per fini personali, ancorché sia in violazione del regolamento aziendale, una mail, il buon senso porta a dire che non succede niente, quindi non sarà mai possibile intervenire disciplinarmente anche in estrema razza. Se io invece, ad esempio, mando tante tali mail da dedicare delle 8 ore del mio tempo a disposizione del datore di lavoro, 2 per fini personali, ecco che a questo punto l'intervento è importante. Anche quindi... se poi lì bisogna pure stabilirlo che effettivamente quel numero di mail che tu hai mandato, ricevuto, ti ha portato via 2 ore di tempo del lavoro, anche il datore di lavoro immagino che poi lo debba provare, e anche lì si scatena poi un contenzioso che non finisce più. Però esatto, lì insomma, danno... ma non vi invidio, certo. No, gli avvocati avranno... Ah sì, prima me lo raccontava l'avvocato Fava in questo periodo, è veramente, non solo purtroppo sulle mail aziendali ma su tanti altri casi. Cominciamo un po' a sentire come la pensano gli ascoltatori su questo argomento. Su Facebook si è scatenato un dibattito che neanche vi sto a dire. Paola ci scriveva: da datore di lavoro direi che per una mail non è un problema perché dipende dal rapporto che c'è col dipendente, però è vero che chi magari usa troppo spesso gli strumenti di lavoro per fatti suoi e lo fa di continuo in modo poco corretto nei confronti di chi ti dà il lavoro, questo naturalmente non va bene. E poi, se l'iter è stato quello previsto, scrive Maurizia, richiamo verbale, richiamo scritto, multa più sospensione, alla fine licenziamento, direi di sì che questo controllo di questo datore di lavoro era corretto. Se invece alla prima mail ti licenziano in tronco, decisamente no, non era questo il caso. E ce ne sono tanti altri, poi magari ve li leggo, ma sentirei anche qualcuno. Andiamo da Paola. Buongiorno Paola, benvenuta, ci chiama da Milano. Buongiorno. E grazie dell'accoglienza a tutte e due, che siete magnifiche. Grazie. Dunque, sì, volevo dire questo: io sono un insegnante in pensione da un anno e non mi è mai capitato di utilizzare il telefono della scuola ai fini privati, ma io penso di essere forse l'unica al mondo, dice l'unica al mondo. Dunque, prima le medie, se facevamo qualche telefonata, la segreteria ci diceva di lasciare qualcosa, il gettone. Cosa che poi loro avrebbero utilizzato per comprare, che ne so, cose di utilità scolastica. Quando ho capito che i soldi non andavano in segreteria per modo legale, ovviamente mi sono asseduta, anche se la telefonata era lì per qualche chilometro di distanza, e ho sempre usato il mio cellulare. Avevo dei colleghi, uno in particolare, che telefonava tutti i giorni alla fine delle lezioni a casa sua, che era centinaia, migliaia di chilometri, stava mezz'ora. E questo non va bene, tutti lo sapevano ma nessuno parlava. Tra l'altro Paola, qua apriremmo lo spaccato della pubblica amministrazione, mentre al liceo non è mai successo una cosa simile. Se uno fa una telefonata non succede niente, anche se è stato detto o non detto, però in questa situazione in cui la gente ormai l'onestà non esiste più, la moralità nemmeno, vale la pena di mettere tutto per iscritto e specificare nei minimi dettagli. Paola, proprio intransigente. Paola, la ringrazio, devo salutarla perché abbiamo altri ascoltatori pronti ad intervenire, ma abbiamo capito perfettamente come la pensa. Paola integerrima, correttissima, dice: io vedevo dei comportamenti che non mi piacevano affatto e non mi sono mai assolutamente allineata, pur avendo potuto utilizzare il telefono della scuola per qualche telefonata, addirittura contribuendo magari a questa spesa. Poi non mi convinceva tanto la modalità con cui utilizzavano questo denaro che lasciavo, preferivo non farlo. Tra questo comportamento e chi invece è assolutamente ne approfitta, avvocato, poi ci sono tutta una serie di casi consentiti dalle aziende. Mi spiega però, ecco, nel momento in cui l'azienda ci dice: hai la tua mail aziendale, ti do il telefono aziendale, che tipo di informazione deve darci anche sull'utilizzo di questi strumenti e quando intervengono i sindacati appunto a stabilire le regole di questo utilizzo? Ma certamente, per tornare velocissimamente all'ascoltatore, quello che dicevamo prima, il principio del buon senso e soprattutto della proporzionalità, se vogliamo, perché un conto è fare una telefonata spot, altro paio di maniche è dedicare mezz'ora, un'ora del tempo che devo dedicare al datore di lavoro perché mi paga per quello, e invece per altri motivi. Quindi a questo punto, quanto più io sottraggo tempo al datore di lavoro per il quale vengo retribuito contribuito, mm-hmm. quanto più la gravità aumenta del fatto e quindi quanto più posso andare nei confronti del dipendente mm-hmm. sotto il profilo disciplinare. Che cosa posso fare? Beh, è fondamentale che il datore di lavoro, da questo punto di vista, dicevamo, abbia inserito, implementato in azienda un regolamento aziendale che dica come devono essere utilizzati i beni aziendali, PC, email, internet, cellulare, eccetera, eccetera. Oggi, ad esempio, col Job Act, questi beni e strumenti che vengono dati in dotazione possono essere controllati, a differenza un po' del passato, quando sono inerenti alla prestazione lavorativa. Certo. E questa è un po' la novità del contratto a tutele crescente, il Job Act, che ha attualizzato un impianto normativo un po' vecchio, che era lo statuto dei lavoratori. Esatto, no? 1970 direi, che aveva più o meno la nostra età, esatto. Avvocato Fava, per cui insomma un po' vecchiottino. Esattamente. E quindi insomma le novità dove sono state introdotte? Le novità stanno nel fatto che, differenza del passato, oggi se c'è questo regolamento se c'è questo regolamento io posso intervenire nei confronti del dipendente addirittura sotto profilo disciplinare. Questa è una grande novità. Mm-hmm. Per i beni che io ti concedo, io datore di lavoro ti concedo a te dipendente in utilizzo, che sono inerenti alla prestazione lavorativa, altra novità: oggi posso evitare di fare l'accordo sindacale, cosa che invece è rimasta per quanto riguarda ad esempio gli impianti audiovisivi, le telecamere, mm-hmm. famose telecamere o i sistemi anche di geolocalizzazione vengono utilizzati soprattutto quando si vuole sapere dove sono i dipendenti e dove si trovano. Perché? Perché magari la dimensione dell'azienda, dell'edificio è anche particolarmente importante e c'è bisogno un po' di monitorare, forse anche per ragioni di sicurezza, insomma. Assolutamente, infatti questi strumenti devono avere l'accordo sindacale, o comunque in assenza dell'accordo sindacale deve essere chiesto alla direzione territoriale per il lavoro l'autorizzazione. E quando parliamo di impianti di audiovisivi, telecamere, geolocalizzazione, certo. che possano comunque anche che siano tutela del patrimonio aziendale. Quindi ci sono. Allora, il tema è veramente complicato, oltre che delicato. Naturalmente nessuno vi licenzierà se utilizzate la mail aziendale. Detto questo, se fino ad ora non vi siete mai chiesti qual è la disciplina dell'utilizzo della mail aziendale, del rapporto che dovreste avere in questo ambito con il vostro datore di lavoro, sicuramente qualche documento scritto in azienda c'è, andatevelo a riguardare, perché non si sa mai, essere preparati è meglio. Adesso c'è il giornale radio, poi ritorniamo su questi temi, avvocato Fava, anche con le domande di Alberto D'Arieti, Luigi da Vicenza. A tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Digital Radio Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale, è vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Cuore e denari. Non li chiamerei fannulloni, li chiamerei truffatori, quelli che vanno, timbrano e poi si scappano. Questi qui stanno distruggendo la credibilità anche di tutti gli altri, della stragrande maggioranza che lavora per bene. E allora pugno di ferro, sì, mercoledì in Consiglio dei Ministri andrà la nostra proposta di norma, chi fa così viene licenziato entro 48 ore e se il dirigente non procede al licenziamento rischia lui stesso di essere mandato a casa. Guarda, ce la vogliamo veramente vedere tutta come va a finire questa vicenda, naturalmente facendo tutti i distinguo del caso, ma certo che tutte le situazioni che continuiamo a vedere in televisione di gente che timbra e poi va a farsi gli affari suoi, noi veramente non ne possiamo più. Per cui speriamo insomma che prenda la direzione corretta questo provvedimento che il governo intende prendere. Quelli di cui parliamo noi stamattina però sono casi molto diversi, parliamo appunto di mail aziendale a fini personali, tema che pure ha fatto molto discutere in questi giorni. dopo questa sentenza della Corte di Strasburgo sul caso di questo cittadino rumeno che utilizzava la mail aziendale per fini personali, cosa che mediamente facciamo tutti quanti noi, ma naturalmente speriamo che tutti noi, come dire, quando ci comportiamo in questa maniera, ci guidi il buon senso, che è la parola d'ordine che abbiamo, avvocato Fava, no, nominato ormai, proclamato questa mattina per la nostra trasmissione. 800 24 00 24 il numero verde per le vostre osservazioni su un tema veramente complicato e delicatissimo, che peraltro si è complicato ancora di più alla luce di quanto ha introdotto nello scorso settembre il Jobs Act. È stato pubblicato, appunto, è stato varato un decreto che ha modificato l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori in materia di videosorveglianza, quindi parliamo anche di controlli a distanza del lavoratore, un adeguamento che, come specificavamo prima, che è stato necessario perché sono state aggiornate le procedure preesistenti alle innovazioni tecnologiche introdotte nelle aziende, quindi è stata superata una norma che più o meno aveva più di 40 anni, più di 45 anni. Alberto D'Arieti, benvenuto. Buongiorno Nicoletta e Deborah. Buongiorno, ci dica. La stiamo osservando. Avete da osservare, a me osserva l'INPS perché sto in pensione. Quindi... Quindi ormai insomma il problema la tocca. Comunque, relativamente, che ne pensa? Io penso che un programma dove stanno due conduttrici è sempre meglio di qualsiasi programma dove ci sta anche un solo conduttore. Senta Alberto, ci dica un po' sulla mail aziendale. Lei adesso, allora, dice non lavora più, ma qual è il suo, il mio, suo allora, commento? Io sono il primo a dire che quando una regola viene fatta deve essere rispettata. Ma per poter rispettare questa regola significa che il datore di lavoro dovrebbe avere uno strumento terzo che a fine mese o quando controlla licenzia tutti quelli che hanno utilizzato la mail aziendale, non che lui poi fa la cernita di chi deve licenziare o meno. Quindi fatta la regola, la devono rispettare tutti. Alberto, io invece dico che anche se un lavoratore utilizza a fini personali la mail aziendale, poi garantisce i risultati di produttività che il datore di lavoro si aspetta e chiede, penso che si possa come dire, avere un ottimo rapporto sul posto di lavoro. Avvocato Fava, forse ho veramente brutalmente banalizzato la situazione, però anche questo è vero. Ma io condivido completamente. Prima ancora che la regola, esiste la correttezza che deve essere reciproca. Quindi se io sono un dipendente devo rispettare e devo lavorare a favore del mio datore di lavoro per il tempo che è previsto contrattualmente, e viceversa il mio datore di lavoro deve comportarsi correttamente con me, naturalmente pagandomi il mio stipendio per il tempo che lavoro. Dopodiché le regole vengono fatte per il rispetto di determinati comportamenti sul luogo di lavoro, quindi in generale. Dopodiché ecco che intervengono il buon senso, il concetto, il principio della proporzionalità, che portano a intervenire per far rispettare la correttezza in generale, ecco, sul rapporto. Vogliamo lavoro. Anche raccontare del caso di chi si prende le pause caffè, avvocato Fava, perché anche qua non è la Corte di Strasburgo che è intervenuta, ma perché qua si trattava appunto del cittadino romeno, qua abbiamo una pronuncia di un'altra istituzione molto importante italiana su un caso che riguarda il nostro paese invece. Ma certamente, dice bene, non è che in assenza degli interventi di Strasburgo la nostra magistratura è stata ferma, comunque altro i nostri casi italiani sono stati pochi, tutt'altro. È una materia sicuramente molto in fermento. Un recentissimo caso che calza pennello, se vogliamo, sull'argomento di cui stiamo trattando è proprio il seguente, ed è la Cassazione dell'ottobre 2015 che ha ritenuto lecito il licenziamento del lavoratore che viene geolocalizzato ad intrattenersi al bar in locali di tavola calda o comunque fuori dalla zona di attività dell'impresa per conversare, ridere o scherzare con i colleghi durante l'orario di lavoro. Dobbiamo precisare che qui c'era l'accordo sindacale, quindi il datore che stabiliva di lavoro, che cosa? Che il lavoratore poteva essere geolocalizzato? Che era prevista il sistema di geolocalizzazione, sì, esattamente, quindi, e i lavoratori dipendenti erano stati resi edotti, messi a conoscenza di questi sistemi, quindi diciamo che l'iter burocratico, legislativo, contrattuale era stato seguito a regola d'arte dall'impresa di concerto con le rappresentanze sindacali e i lavoratori. No, stavo pensando, vabbè, adesso non le dico quante mail, sms si stanno scatenando, perché c'è naturalmente chi introduce anche il tema della pausa per andarsi a fare la sigaretta fuori, perché magari mentre per il caffè te ne puoi prendere un paio in una giornata, chi ha il vizio del fumo magari invece queste pause se ne prende un po' di più nel corso della giornata. Quindi siamo partiti dalla mail del cittadino rumeno ai controlli a distanza del Jobs Act fino ad arrivare alla pausa caffè, alla pausa e a ripetute pausa sigaretta. Qui vedi che cuore denari come al solito si allarga, qua adesso si materializza il dottor Boffi. Il dottor Boffi che dice allora, no, effettivamente che dice sul tema fumo nessuna pronuncia. No, il tema fumo è un altro tema che sta aumentando in maniera sensibile, perché come diceva un attimo fa, ancora una volta un conto è la sigaretta o quei magari alla fine della pausa pranzo ti prendi altri 3-4 minuti per altro pa' di maniche, quando queste pause pranzo diventano ripetitive nel corso della giornata. Ancora una volta, o viene disciplinato questo aspetto e deve essere disciplinato ad esempio attraverso un accordo integrativo aziendale, quindi con i rappresentanti sindacali, o se no comunque tempo che io sottraggo, se fatto durante il rapporto di lavoro, durante l'orario di lavoro, è tempo che io sottraggo al mio datore di lavoro, tempo che mi viene retribuito e quindi a questo punto o lo recupero in qualche maniera oppure non so che cos'altro possa succedere. Ce la faccio a sentire Luigi De Vicenza, certo, che non vedo l'orario. Con piacere Luigi, buongiorno. Sono sempre qua, buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Io volevo porre il mio caso all'avvocato Fava. E quando succede il caso opposto, cioè quando l'azienda manomette la propria mail personale aziendale, diciamo. Anni fa avevo fatto una richiesta di trasferimento in un'altra sede e dopo mesi, e dopo aver mandato la mail, e dopo per fortuna aver salvato la schermata, ho ritrovato la mail nelle borse. Cioè, non ho capito che cosa le è successo. Lei ha chiesto un trasferimento? Io ho chiesto un trasferimento con via una mail, mail aziendale. Sì. E la mia richiesta di trasferimento è caduta nel vuoto, non è stata raccolta. È andata a finire nelle bozze dopo essere stata registrata come mail inviata. Sì. È andata a finire nelle bozze. Quindi l'azienda sostiene che non è mai stata ricevuta, per cui non hanno potuto accontentare. Esatto. Guardi Luigi, che ne so, io lì avrei gestito, se entro un tot di tempo non mi rispondono, ne mando altre 5 in qualche maniera, come dire, tempo. Esatto, non lo so, avvocato Fava. Ma certamente anche perché tra l'altro una richiesta una mail che poteva essere finita in bozza per tante ragioni. Può anche essere un banale errore, ma comunque in questo caso è importante che il dipendente comunichi al suo datore di lavoro, anche in via gerarchica, quindi ufficio del personale, ipotizziamo, ma comunichi con un riscontro. E magari certe volte non è sufficiente la mail, perché astrattamente io posso anche non sapere se quella mail l'hai mandata veramente tu, ed è una mail importante perché c'è una manifestazione di intenzioni, tu mi stai chiedendo il trasferimento. Allora magari a questo punto converrebbe andare all'ufficio del personale, portare materialmente a mani la propria comunicazione e magari farsela firmare per ricevuta, solo per ricevuta. E fai anche due passi, capisci? Che male non ti fa, che male pausa, no, meno male. Pausa sigaretta. Esatto. Avvocato Fava, noi avevamo preparato tante cose da dire, ma le diremo in un'altra puntata, perché sono certa che anche alla luce della questione dei furbetti della pubblica amministrazione, io lo so che non è gradevole che li si chiami così, perché molti che lavorano invece correttamente, magari con la radio accesa, come si indispettiranno certamente rispetto a questi commenti, però appunto anche alla luce di quello che accadrà in questa settimana con il provvedimento che prenderà il governo, magari noi continueremo ad andare avanti appunto approfondendo temi di altro tipo, utilizzo degli strumenti aziendali a fini personali, fino a quanto possiamo spingerci naturalmente. Buon senso, parola d'ordine, non ce lo dimentichiamo mai. Fil rouge. Eccoci qua. Avvocato, grazie per essere stato con noi. Magari quel suo documento, quel suo ebook che ci ha portato, se qualcuno è interessato, magari quasi quasi lo regalo a qualcuno. Volentieri. Che ne dice? È d'accordo? D'accordissimo. E documentatevi naturalmente. Se siete in procinto anche di firmare un nuovo contratto di lavoro da questa settimana, se vi daranno il telefono aziendale, la mail aziendale senz'altro e altri strumenti, cercate di leggervi bene i documenti che l'azienda vi fornisce per vedere quanto avete il diritto appunto di utilizzare tutto ciò. Che dice? sono d'accordo con lei. Bene, grazie. Ci piace, vero? Quando ottimo. Ci danno ragione. Sono un po' tutta storta stamattina, guarda. Dai, che dici, il peso degli anni o dell'esperienza? Cosa un po' tutti gli anni, no, ma un po' tutto. Allora, noi cambiamo tema, come anticipato, ma restiamo in ufficio. C'è qualcuno che vi sta spiando? Guardate se sotto la vostra sedia non ci sia nulla di strano. Scatole, scatoline dotate di sensori sofisticati che come occhi rilevano la vostra posizione, quindi la vostra presenza e la vostra assenza. Non è fantascienza, è successo ai cronisti del Daily Telegraph, ne abbiamo parlato in apertura, ma di fronte alle proteste sollevate dai dipendenti, l'azienda ha dovuto rimuovere tutto. Incidente chiuso, almeno per il momento, ma voi restate seduti lì dove siete, non solo perché chi va all'osto perde il posto, ma perché oggi con l'aiuto di una grande esperta faremo una valutazione dello stato di salute del nostro apparato osteoarticolare, partendo proprio dal modo in cui stiamo seduti alla scrivania. Poi prenderemo in esame il nostro adorato divano e andremo sul materasso e sul cuscino. Insomma, dimmi come ti siedi, come ti sdrai, che posizione assumi dormendo e ti dirò come stai, cosa devi fare per stare meglio, continuare a stare bene. Quindi oggi fateci entrare nelle vostre case, nei vostri uffici, nella vostra camera da letto e siate pronti a descriverci il vostro modo di stare seduti, la vostra posizione quando dormite, il cuscino che utilizzate, alto, basso, un po' più molle, rigido, il materasso su cui riposate, il divano sul quale amate distendervi, arredi, tutti questi che sono compagni di vita e che lo vogliamo o no fanno anche parte di quel corredo personale che abbiamo a disposizione, ma che dobbiamo imparare ad usare a nostro vantaggio. Raccontateci in diretta i segnali che il vostro corpo vi manda all'800 24 00 24. Noi oggi ci affidiamo alla dottoressa Laura Bertelé, fisiatra, specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria, psicologa e direttrice sanitaria della Fondazione Apostolo, nonché autrice di un libro di cui abbiamo parlato spesso con Deborah e anche con la dottoressa Bertelé, Ascolta e guarisci il tuo corpo, Mondadori editore. Buongiorno dottoressa Bertelé e bentornata. Grazie e buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, noi siamo tutti qui, seduti più o meno comodamente, non ci sono scatole nere, spie, sensori, ma useremo il suo occhio clinico per valutare la nostra postura e il nostro numero verde per segnalare dolori, dolorini, tensioni, formicolie, rigidità che avvertiamo mentre stiamo seduti, quando cambiamo posizione o quando ci alziamo. È d'accordo, dottoressa Bertelé, abbiamo detto tutto? Sì, penso che la cosa importante è proprio ascoltare e vedere e ascoltare il corpo, che cosa ci dice quando abbiamo dolore, quando siamo seduti, quando ci alziamo, dove l'abbiamo, quando verso sera, dopo tante ore che siamo seduti, ci sentiamo indolenziti, dove? Ecco, questa è già la prima fotografia che è fondamentale. Come abbiamo anticipato, noi non ci fermeremo in ufficio, vi seguiremo anche a casa, parleremo anche di divani, di materassi, di cuscini. Fate attenzione perché a volte il riposo blocca, ne parleremo. Intanto, se siete seduti, non cambiate posizione proprio adesso, perché proprio mi serve che prendiate consapevolezza della vostra posizione, dove tenete la schiena, come tenete le spalle, le braccia, le gambe, sono accavollate, le mie sono intrecciate, doppio intreccio oppure di stese. Dottoressa Bertelé, la posizione seduti in realtà non è così naturale come ci sembra, perché l'Homo erectus non si è ancora trasformato nell'Homo sedutus. Battute a parte, il nostro assetto posturale quando ci sediamo cambia. Sì, intanto ecco, per prima cosa dobbiamo sottolineare che già l'Homo erectus ha qualche difficoltà, perché siamo passati erectus dalla quadrupedia al fatto di stare in piedi su due gambe alla posizione bipede, e già non è facile. Quando ci sediamo poi noi non saremmo fatti per le sedie, perché in tutte le civiltà primitive si stava seduti per terra, accovacciati, lo vediamo ancora negli orientali. Ecco, la sedia, per quando invece stiamo seduti a sedia e sulla sedia e nella nostra civiltà è obbligatoria, dobbiamo fare attenzione che ad esempio i piedi siano ben appoggiati per terra, che le sedie non siano troppo alte o troppo basse, che è la cosa più frequente. Quindi dobbiamo fare, la posizione è proprio quella di stare con i piedi ben per terra, tutti e due, non accavallare le gambe come diceva prima tu. Io addirittura ho l'intreccio. Cioè sono veramente Ecco, c'è un appoggio molto importante che sottolineerei, che è quello che si chiama appoggio ischiatico, che sono quegli ossicini che ci sono sotto i glutei. Sì. Cioè, quindi se noi flettiamo le anche, che vuol dire portare le ginocchia un po' in alto, sentiamo proprio sotto i glutei degli ossicini. Dobbiamo stare appoggiati lì, perché è appoggiando lì che la schiena si raddrizza. Se invece piano piano scivoliamo all'indietro, la schiena diventa C. Allora, troviamo come si chiamano questi ossicini che sono nelle chiappe? Gli ischi, ecco. Cioè un appoggio ischiatico, gli ischi. Gli ischi, eccoli qua. Anche abbiamo. L'avvocato Fava si sta cercando di geolocalizzarli. Bello. Allora, li localizziamo e quindi appoggiamo. Questo è l'appoggio per permettere alla nostra colonna e anche al nostro bacino di stare comodo. Esatto. Stare comodi. Sì, e di liberare, se appoggiamo bene gli ischi, anche il collo si rilassa, le spalle si rilassano. Se no, basta provare, se noi andiamo all'indietro, cioè quindi facciamo scivolare gli ischi verso l'avanti e il nostro appoggio diventa più posteriore, certo. Allora la schiena diventa C e sentiamo che le spalle risalgono. Quindi se ad esempio una persona deve scrivere il computer, deve scrivere... a quel punto si contrae moltissimo, anche se deve suonare, cioè in tutte le posizioni sedute... affatica molto di più le spalle e le mani. Beh, diciamo anche come bisogna tenere le spalle e le braccia per chi usa molto il PC, per chi manda mail aziendali anche al di fuori dell'orario di lavoro, che così l'avvocato Fave qua con noi sta sorridendo. Poi allora, dedicheremo, mi scusi dottoressa Bertelè, allora oggi ci occupiamo delle persone che fanno un lavoro sedentario, cioè seduta alla scrivania. Sappiamo che non tutti i lavori sono così, per cui ci occuperemo poi in una seconda puntata delle persone che per lavoro devono stare molte ore in piedi. Quindi oggi ci occupiamo di chi sta seduto, nelle prossime puntate ci occupiamo dell'Homo erectus anche al lavoro. Dottoressa Bertelè, allora occupiamoci anche delle braccia, perché poi molti formicoli, dolori, tunnel carpali vengono attribuiti a una cattiva postura e a una cattiva gestione anche del mouse e dell'appoggio delle braccia sulla scrivania. Esatto. Allora, riassumiamo la posizione ideale. Sì. Quindi, piedi appoggiati per terra. La gamba, che sarebbe il tratto dal ginocchio al piede, deve essere perpendicolare al pavimento. Quindi i piedi non devono essere né troppo avanti né troppo indietro. Ecco, poi le ginocchia devono essere non più alte del bacino, tutto al più alla stessa altezza. Meglio se un po' più basse. Sì. Quindi il bacino un po' in alto. L'appoggio ischiatico libera tutta la colonna e in questa posizione... dovrebbero essere con le spalle rilassate, i gomiti tangenti al tavolo, al piano d'appoggio dove lavoriamo. Quindi devono esserci le spalle rilassate, la testa deve poter guardare in avanti. Se ci incliniamo in avanti, ad esempio per scrivere, dovrebbe essere tutta la colonna che si inclina in avanti. E lì diventa fondamentale che la sedia sia un pochino più alta dietro, di poco. Allora, date anche un occhio alla vostra sedia, chiudete gli occhi, cercate di capire che cosa vi dice il vostro corpo, controllate i piedi, controllate le ginocchia, l'anca, il vostro collo, se siete spostati troppo in avanti o troppo indietro. Tante volte il nostro corpo richiede proprio di cambiare posizione, avvertiamo un formicolio, un dolorino e cerchiamo una posizione più comoda, ma non sempre la posizione più comoda è quella che fa bene al nostro apparato osteoarticolare o muscolo scheletrico, che dirsi voglia. 800 24 00 24, vi anticipo che sulla pagina di Facebook abbiamo rimesso il video fatto con la dottoressa Bertelè proprio sulla postura, quindi se volete dare delle immagini alle parole della dottoressa Bertelè, l'avvocato Fava è perfetto, guardala un po', è veramente... io devo dire che la dottoressa ha ragione, perché mi sento già molto meglio, molto più fluido sulla schiena, vedi, a distanza. Dottoressa, l'ha geolocalizzata a distanza, ce l'ha rimesso a posto. Vede? Adesso farò il regolamento aziendale. Facciamo prima dei mercati un rapido sommario dei temi che affronteremo nel corso di questa seconda parte di Cuore Denari. Abbiamo parlato sicuramente di sedia, di postura alla scrivania. Vi ho anticipato che parleremo anche delle posizioni che assumiamo durante il sonno, del rapporto che abbiamo con il nostro cuscino, il materasso quando ci alziamo, che siamo tutti indolenziti. Spesso diamo la colpa a questi compagni di letto. Voglio leggere solamente un messaggio che arriva da WhatsApp da una moglie un po' preoccupata per il marito che, dopo aver aperto un'attività, causa insonnia da preoccupazioni, dorme sul divano da ben 3 anni. E le chiede, dottoressa Bertelet, come posso convincerla a tornare a dormire a letto? Non so se la dottoressa Bertelet questo è in grado, perché ci potrebbero essere tanti consigli diversi. Siamo un po' gli ascoltatori, ecco, però. Ma su questo, lui è partito da lontano per arrivare a una risposta precisa. Però, quanto influisce sul suo stato fisico la postura sbagliata, ammesso che sia sbagliata quella che assume dormendo sul divano? Perché ci sono dei divani che hanno le braccia, eh? Sì, ecco, bisogna che il divano sia comodo, non è in sé negativo il divano. L'importante è che non sia troppo morbido, che non si imposti, che non sia semiseduto, perché a volte ci sono dei divani che possono servire per dormire anche in maniera corretta. Quindi il consiglio alla nostra ascoltatrice è di trovare un'altra motivazione. Il divano, il divano di per sé non è un problema. Cerchiamo di convincerlo con le buone o con le cattive in altro modo. E poi semmai no, abbiamo già anche qua l'avvocato. 800 24 00 24. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sui mercati, se ci fanno saltare sulle sedie, sì, oppure se ci fanno svenire. E noi ritorniamo con la dottoressa Bertelet, le vostre domande, e daremo subito spazio a Margherita che ci chiama da Padova. Tra poco. Cuore e denari. Il materasso, compagno di vita, passiamo su di lui un terzo della nostra vita. Come succede con i conviventi stretti, a lui imputiamo molti dei nostri malesseri, il mal di schiena, il mal di collo, i brutti sogni. Noi sappiamo bene quanto sia importante dormire e dormire un sonno di qualità. Ne abbiamo parlato proprio venerdì con il professor Ferini Strambi del Centro del Sonno del San Raffaele di Milano. Chi dorme bene vive bene e invecchia meglio, ma non sempre il nostro materasso è quello giusto per noi. Parliamo anche del materasso, continueremo a parlare delle sedie, ma anche del cuscino, anche della postura alla guida, insomma di come stiamo seduti e su che cosa ci sediamo, di come stiamo sdraiati e che cosa avvertiamo durante queste posizioni, ma anche quando cambiamo posizione o quando torniamo nella posizione eretta. Quindi lamentatevi, 800 24 00 24 e soprattutto dateci anche i vostri consigli. Ci accompagna la dottoressa Laura Bertelet, che vi ricordo è fisiatra, specialista in terapia fisica e riabilitazione motori, è psicologa ed è direttrice sanitaria della Fondazione Apostolo, e ci ha insegnato anche in numerose puntate in cui è stata nostra ospite ad ascoltare proprio i segnali e le parole che il nostro corpo ci manda. Dottoressa Bertelet, ci aspetta Margherita da Padova, che ci trasferiamo a casa sua, perché Margherita, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta Margherita. Grazie, dove ci porta? Grazie. Noi veniamo da lei, in camera da letto. Sì, anche se adesso sono sul terrazzo, al fresco. Allora, io un paio d'anni fa, come ho detto prima, ho cambiato materasso, doghe, tutto quanto. Premetto, mai avuto mal di schiena in vita mia, nemmeno col vecchio materasso. Dall'indomani che l'ho cambiato è un insacchettato, molle insacchettate, 7 posizioni, bla bla bla. Insomma. Dall'indomani mattina la mia vita da quasi 2 anni è cambiata, perché io ho male di notte, ho male poi durante tutto il giorno, spessissimo devo andare a dormire sul divano. Allora cosa ho fatto? Ho aspettato un po' di mesi perché ho detto boh, sarò io, mi devo abituare. Dopo un po' di mesi di dolori ho cominciato ad andare a dormire nell'altra camera, dove avevo sempre dormito normalmente sugli altri materassi, e mi faceva male. Allora, torna dal rivenditore, ho comprato un piccolo memory da mettere sopra, ho cambiato letto, sono andata le ho fatte tutte. Ma adesso come sta? Le sue notti allora come sono? Male. Perché sì, non tutte, alcune sono più brutte, che mi costringono ad andare a dormire sul divano. Ecco, la mia vita è proprio cambiata, tra l'altro sono una neopensionata, speravo di stare meglio. E comunque... adesso io non so da che parte cominciare, perché ho il terrore di andare a comprare un materasso nuovo. E certo, magari, di non cadere dalla padella alla brace. Bravissima. Dottoressa Bertelé, come si può aiutare Margherita, che ci racconta una situazione per fortuna non così frequente, ma è anche vero che quando noi ci alziamo siamo un po' tutti doloranti, il dubbio che sia il materasso, perché è vecchio, perché è da cambiare, magari ci viene. Allora, che cosa racconta la storia di Margherita che possa naturalmente essere di aiuto alle persone che ci stanno ascoltando? Prendiamo proprio spunto dall'esperienza diretta. Allora, per quanto riguarda il materasso, è importante che non sia né troppo rigido né troppo morbido. Va molto bene quelli di lana, i vecchi materassi di lana. L'importante è trovare il materasso appunto che va bene. Ma quello lì è difficile, perché ma vede quello che è molto molto più importante ancora è la posizione che uno ha durante il sonno. Quindi intanto, se una persona tende a svegliarsi di notte o al mattino con dei dolori, è importante che faccia una bella doccia calda, un bagno caldo prima di andare a letto, in modo di rilassare i muscoli. Dopodiché è fondamentale che abbia una posizione corretta, che vuol dire innanzitutto non stare a pancia in giù e poi stare sui fianchi o a pancia in su. Ma sui fianchi va bene se il materasso non è troppo rigido, perché sennò può dare fastidio. Quindi non a pancia in giù, ma quello, se però sì. Dottoressa Bertelé, io posso anche cercare di mettermi sul fianco, e poi durante il sonno se io non mi sento più comoda a stare con la pancia in giù, non è che posso stare lì e montarmi la sveglia, come ma si fa? Guardi, io vedo che con i pazienti, cioè quando una persona ha mal di schiena, è proprio molto molto importante che non si metta pancia in giù, quindi noi li aiutiamo dicendo si mette un cuscino davanti, abbracci un cuscino in modo che non rotoli a pancia in giù, per intenderci, e senta invece qualcosa di contatto, perché a volte è proprio il calore sulla pancia che aiuta. Quindi si metta sul fianco con un cuscino e pensi prima di andare a letto, si autocondizioni dicendo non devo mettermi la pancia in giù. In genere facendo le sedute e facendo questo autoconvincimento funziona, ci si riesce. Quindi doccia calda prima di queste sono dei suggerimenti utili a chi si alza e sente un po' la schiena incriccata, esatto, dolente, esatto. Allora, una bella doccia calda prima di andare a dormire. Sì. E poi abbracciate il vostro cuscino se non, esatto, potete abbracciare il partner, se il partner va a dormire sul divano, perché succede anche quello. Mettetevi su un fianco e mantenete quella posizione o cercate di evitare di dormire con la pancia in giù. Ma dottoressa Bertelé, rimaniamo sul divano prima sul materasso prima di tornare alla nostra sedia, perché è anche molto molto importante il modo in cui noi scendiamo dal letto. Quando si dice sei sceso con il piede sbagliato, sì, l'umore non è solamente un problema per il nostro umore se scendiamo col piede sinistro, ma anche proprio al benessere della nostra colonna e anche dei nostri muscoli. Dottoressa Bertelé, qual è il modo corretto per scendere? Qua ci vorrebbe il domandone. Ecco, guardi, la cosa molto importante è innanzitutto stirarsi bene prima di scendere dal letto. Non c'è un animale che si alza di colpo, quindi dobbiamo imparare dagli animali. Quindi facciamo gli animali. Ecco, esattamente, stiriamoci bene. Poi ci si gira su un fianco, si mettono giù le gambe e col peso delle gambe ci si alza col tronco, cioè si fa come si usa una bascula, in modo che col peso delle gambe ci aiutano a tirare il tronco seduti sul letto e poi ci si alza. Non ci si deve alzare dritti in faccia come se uno si tirasse su, come quando uno fa gli addominali, ecco, quello fa malissimo. Nei primi movimenti teniamo presente che le ernie del disco nella gran parte dei casi sono nei primissimi movimenti del mattino. Quindi alziamoci piano piano, diamoci il tempo di scendere dal letto, girarsi sul fianco, metterci seduti, fare i primi passi, in caso fare un'altra doccia, e poi si può partire. Dottoressa Bertelé, già che c'è, ci accompagni in bagno, perché anche il momento di quando ci si lava la faccia al mattino, gli uomini si fanno la barba, è un momento molto delicato. Sì. È vero, è vero. Proprio ormai siamo intimi, cioè possiamo dormire insieme, andiamo in bagno insieme. Dottoressa Bertelé ci segue ovunque. Sì, sono proprio i primi movimenti, quindi ripeto appunto, è fondamentale come ci si alza. Poi l'ideale sarebbe far subito una doccia calda, soprattutto per chi ha già sofferto di problemi di schiena, in modo di sciogliere un po' di più i muscoli. E poi ricordarsi di non piegare il tronco senza piegare le ginocchia, cioè bisogna sempre un po' piegare le ginocchia. Ad esempio, se avete un armadietto sotto il lavandino, appoggiate le ginocchia al lavandino, lievemente flesse, in modo che lo sforzo della flessione in avanti del tronco non sia tutto sulla regione lombare, ma sia distribuito sulle gambe. Certo. Ecco, questo è molto importante. Allora, intanto ci stanno chiedendo se invece della doccia calda va bene lo scaldasonno elettrico, perché, ma io, dottoressa Bertelli, qualche cosa va bene. Sì. Il cuscino, mille interrogativi sul cuscino, alto, basso, piccolo, duro, morbido, come si sceglie il cuscino? Allora, intanto lì, anche quello dipende dalla posizione. Se la persona tende a dormire sul fianco, il cuscino deve occupare lo spazio della spalla, quindi deve essere abbastanza alto, sì, in modo di non far comprimere la spalla e di non far inclinare la regione cervicale. Se la persona tende a dormire supino, può essere più bassa. Se cambia posizione, ecco, i memory foam aiutano molto, perché cambiano anche proprio consistenza in base a come ci giriamo. Se no, bisognerebbe farlo diventare più alto, tipo se uno dorme con un cuscino di prima, deve schiacciarselo tutto, quando dorme sul fianco diventa un po' scomoda la cosa. Un ascoltatore, invece, che sotto la testa il cuscino, ce lo scrive su WhatsApp. Dove lo mette? In mezzo alle gambe. È normale, ci chiede? Evidentemente sì, se lo fa lui sarà normale, e non penso che possa creare dei problemi. No, evidentemente sì. È fondamentale quando uno ha problemi d'anca. Cioè, mettere un cuscino fra le ginocchia diventa proprio un'indicazione essenziale alla fine della gravidanza, in cui si hanno dei problemi di anca, e poi quando ci sono già dei dolori sulle anche, allora ci vuole proprio un cuscino fra le ginocchia. Vedi? È molto importante. Anche Laura Vanossi, che in regia, che ha appena avuto una bambina, era, lo sapeva, sulla gravidanza, sugli ultimi passaggi, è ferrata. Sì. Vediamo allora che cosa ci racconta Roberto, che ci chiama da Milano, poi buongiorno Roberto, e poi andiamo da Sandro. Buongiorno, benvenuto. Pronto? Sì, Roberto, eccolo qua. Niente, io tornavo un po' sulla sedia. Bravo, così mi aiuta. Sostanzialmente faccio parte di una parte della popolazione discriminata, diciamo così, sono quelli un po' più alti che non troveranno mai la possibilità di sedersi come prescritto, perché i mobili da ufficio non consentono di avere il ginocchio. Ma lei, cioè, quanto è alto? Ecco, esatto. Io sono alto, non sono neanche altissimo, sono 1,92, ma non sono mai riuscito ad avere le anche più alte del ginocchio appoggiando i piedi per terra. Roberto, io sono 1,80 più o meno. Appoggio, non appoggio con le braccia sulla scrivania. Dottoressa, chiedevo, siccome avevo sentito che dalle parti della Silicon Valley stavano valutando di lavorare in piedi appoggiate a uno sgabello, se non potesse essere una soluzione un attimino un po' più... rispettosa del suo assetto, diciamo, no, così. Non del mio, lo vedo un attimino più modulabile sulle varie altezze, perché la sedia, oltre a una certa altezza. Allora, Roberto, questa è la proposta, la domanda proposta di Roberto, ma noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. E ritorniamo subito dopo insieme con la dottoressa Bertelè con tutte le vostre domande. A tra poco. Cuore e denari. E dopo esserci fatti un giretto sulle strade e sulle autostrade, torniamo qui seduti e cerchiamo di trovare la posizione giusta per noi. Ci aiuta la dottoressa Laura Bertelè. Voi intanto diteci in che posizione state comodi, quale posizione vi dà fastidio e perché. 800 24 00 24, quando siete seduti, quando siete sdraiati sul vostro divano o mentre dormite, che cosa avvertite quando vi alzate? Sandro, buongiorno da Rieti. Buongiorno a lei. Sandro, le chiedo di aspettare due minuti per una risposta che la dottoressa Bertelè deve dare al nostro ascoltatore, che suggeriva la possibilità di lavorare un po' appoggiati, quasi in piedi ad uno sgabello. Dottoressa Bertelè, le persone alte hanno più difficoltà ad adattarsi alle sedie che si trovano anche in ufficio? Sì. Però è possibile, nel senso che ci sono le sedie regolabili. Io ho un figlio di 1,93 a cui ho cercato di dare delle sedie corrette. Ecco, bisogna Più che altro la sedia non è difficile trovare, bisogna alzare poi un po' il piano di lavoro, questo è vero, perché se no si rimane troppo alti. Suggerisco all'ascoltatore di non piegarsi per OAC, ma di piegarsi sulle anche se deve flettersi in avanti sul tavolo del lavoro. È molto corretto il suggerimento di stare semi in piedi su uno sgabello, infatti i monaci per cantare l'avevano già scoperto da secoli, ecco, per poter stare tante ore in piedi senza faticare la schiena, di essere semi seduti, cioè semi in piedi o semi seduti come si voglia dire, su uno sgabello, cioè su un appoggio ischiatico, appunto, e basta. Erano e così, poi... certo, perché con questo appoggio tutto il corpo va in assetto, giusto? Esatto, e poi si appoggia, si scarica molto peso sul piede e non solo sulla schiena, che è quello che affatica molto la regione lombare. C'è chi ha dolore alla schiena, chi avverte un dolore molto fastidioso alle ginocchia mentre si alza, e quindi ci sono dei dolorini che un po' corrono lungo il nostro corpo. Sandro, buongiorno, ribongiorno, qual è la sua domanda? Buongiorno, niente, io volevo esporre il mio problema. Praticamente sono anch'io una persona alta, sono 1,93 m, però ho da tempo un problema sul retro delle gambe, sulle cosce praticamente, e al momento che mi seguo ho un dolore in un punto specifico, diciamo approssimativamente il centro delle gambe, delle cosce, quindi io, anch'io penso di avere delle posture sbagliate, ad esempio sul mio divano la sera in cui, sul quale crollo, tendo ad avere questa posizione C che al momento di alzarmi mi dà un senso di indolenzimento nella parte, nella zona lombare, un arrugginimento. Sì, Sandro, venga la domanda. Ecco, niente, volevo sapere se questi dolori che io ho al momento di sedermi, nel punto in cui ho la pressione della sedia, dipendeva da questo, ecco, dalla parte, dalla mia postura sbagliata sul divano, da una postura sbagliata sulla sedia. Grazie, dottoressa Bertelè, un aiuto per Sandro? Sì, può dipendere, anche perché lì passa lo sciatico, quindi può essere un preallarme di una sciatica, e quindi vuol dire che l'ascoltatore deve fare molta attenzione alla posizione della regione lombare. Non dobbiamo dimenticare che siamo comodi nelle posizioni sbagliate, perché i muscoli corti ci portano verso la posizione scorretta, quindi bisogna fare un lavoro di controllo della posizione, un lavoro sui muscoli in modo che sia più facile la posizione corretta, e fare attenzione quando stiamo seduti, facci ogni tanto mente locale, respirare, allungarci, immaginare che ci sia un filo che ci tira, che tira la nostra testa verso il soffitto, in modo di riassestare tutta la posizione di tutta la schiena. Perché è un lavoro che si può fare anche con degli esercizi mirati. Voglio rispondere in questo modo a Paolo, che ci scrive da Riccione, sì, su WhatsApp, ma ci ha scritto anche un SMS, che vorrebbe sapere se è veramente importante, dottoressa Bertelè, dirigere la testa del letto verso nord, come sente dire Paolo da tanto tempo, come dice anche, come afferma anche il Feng Shui, e ci racconta che ha 1000 dolori a schiena, collo, ha 47 anni, ma il suo medico gli ha detto che è normale, è la vecchiaia e quindi si deve abituare. Ecco, io ho letto con piacere l'SMS di Paolo, perché noi non dobbiamo rassegnarci, a parte che 47 anni, esatto, volendo, noi, una risposta un noi po' invecchiamo nel direi. Momento in cui nasciamo, ma non è proprio così, ecco, non è un problema di anni quello di Paolo, e non deve rassegnarsi. Dottoressa Bertelè. No, ecco, non è assolutamente normale, ma a nessuna età è normale avere mal di schiena. Sì. Si può avere un po' più di frequentemente, però se una persona si mantiene bene con l'esercizio corretto, magari facendo appunto ogni tanto qualche seduta di rieducazione, può arrivare, io ho pazienti di 90 anni, 80-90 anni, che fanno una vita normale senza avere grossi dolori, quindi non è assolutamente normale. Quindi qual è il consiglio per Paolo e per le persone che sentono il corpo che manda dei messaggi di dolore quando sono seduti oppure si alzano, insomma hanno questo peso sulle spalle e devono trovare un po' lo specialista giusto, le mani a cui affidarsi per evitare di strascinarsi anche in età così giovane, no, con questo fardello? Io consiglio sempre di fare dei movimenti al mattino per sciogliersi, appunto dopo la doccia, infatti li avevo messi anche nel libro, ma ci si può riferire a qualcuno che fa Qigong o Tai Chi, cioè dei movimenti basilari che sono chiamati tra l'altro in Cina proprio i movimenti della salute, che sono quelli per sciogliere tutte le articolazioni tutti i giorni. Ci si impiega non più di 10 minuti e vuol dire veramente partire in una maniera diversa durante la giornata. E durante il giorno ogni tanto ricordarsi di respirare, perché nella nostra società siamo tutti in un blocco inspiratorio totale. Di sciogliersi, di andare alla finestra, di piegarsi un pochino in avanti. Ecco, però nella nostra società siamo molto più a rischio per il troppo movimento, quasi, che per il troppo poco. Cioè, noi viviamo o nello stress del lavoro o nello stress dello sport, che è potenziamento addominali, dorsali, abbiamo l'ossessione. Non abbiamo le mezze misure. No, esatto. Ah, ecco. Esatto, sì. Che sono quelle del buon senso, a proposito, vedi? E lì siamo ritornati. Allora, andiamo a Banda, che ci chiama da Asti, buongiorno. Buongiorno. Carina questa, sì. Complimenti a voi per la trasmissione, siete fantastiche. Grazie Banda. Grazie, Banda. Prego, chiedo per favore... È una neomamma, io sono la neononna, 15 giorni è nata la bimba e la tiene attaccata al seno per tanto, tanto tempo, cosa che gli è stata consigliata dall'ostetrica, per stimolare, perché non ha ancora ingranato bene con l'allattamento materno. E questa mamma per ora non lamenta nulla, ma c'è una posizione, c'è un qualche consiglio oltre a quelli che si leggono? Grazie, grazie Wanda, una neononna che chiede consigli per una neomamma. Ecco. Dottoressa Bertelè. Io sono assolutamente pro allattamento materno, sì. Intanto. Ecco, e però è molto importante che la mamma sia appoggiata bene quando allatta, perché è molto faticoso l'allattamento e quindi deve avere una sedia con uno schienale ben sostenuto, con dei braccioli, sì. Eventualmente usa dei cuscini, ci sono dei cuscini apposta proprio anche per l'allattamento, in modo di non dover sostenere il bambino mentre lo allatta, che il bambino sia appoggiato. Il fatto che ci sia tante ore all'inizio è abbastanza normale, poi piano piano prende il ritmo e le cose diminuiscono, però per la mamma è molto importante questo discorso di stare appoggiata bene e di dormire appena può, soprattutto. Ecco, poi la testa al nord... Del letto, si riferisce al letto, gliel'avrei sì. chiesto perché io ce l'ho, non l'ho messo perché tanto per, ma non saprei se poi funziona o meno. Cioè. Quindi la dottoressa Bertelè, come si dice, per non sapere né leggere né scrivere, la testa del suo letto l'ha messa a nord. Voi? Sì. Ecco, 800 24 00 24, non c'è più tempo forse per intervenire in diretta, ma potete naturalmente scrivercelo, perché le pagine del nostro programma sono a disposizione. Sulla pagina Facebook abbiamo rimesso alcuni video che abbiamo fatto con la dottoressa Bertelè, andateli a vedere per capire qual è la postura da cercare, no? Di tenere, ci sono anche poi degli esercizi per rilassare un po' e allungare le fasce muscolari. Dottoressa Bertelè, ho detto giusto? Giustissimo. Wow. Allora, per ogni vostro dubbio, richiesta, anche esperienza, scriveteci e chiamateci. Allora, dottoressa Bertelè, noi la ringraziamo molto per essere stata con noi. Grazie a voi, vi saluto. Grazie, tutti gli ascoltatori. Ricordo il titolo del suo libro, che racconta tante cose, perché si intitola Ascolta e guarisci il tuo corpo e mette in relazione le nostre emozioni con le nostre posture, tema che mi piacerebbe affrontare presto con la dottoressa Bertelè, perché noi cambiamo, vedi? Il cuore, la mente ci guidano. Portafoglio e noi, mai però. Anche il portafoglio ci guidano anche verso i denari e noi ci facciamo accompagnare qua domani. Esattamente, alle 10:30 vi aspettiamo tutti come sempre numerosissimi. Buona giornata. Buona giornata.